la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. Hey everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rosso on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Sei minuti passate le 21. Bentornati e bentornate in diretta su Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Se siete a Roma e dintorni. E in diretta streaming su www.ondarossa.info. E da inizio una nuova puntata di Do It Yourself Invasion. Ricordiamo un po' di contatti. www.ondarossa.info, il sito della radio. Dove rimanere aggiornati con le varie corrispondenze che vengono registrate nell'arco della giornata, podcast delle altre trasmissioni, nonché attraverso il sito potete contribuire a mantenere in vita questo progetto nato libero nel 1977. E quindi andando a cliccare su Sostieni sarete indirizzati alla nuova pagina di PayPal, nonché troverete tutte le coordinate che adesso vi andrò a pronunciare, che mai ricorderete adesso. Quindi potete sottoscrivere attraverso lo storico conto corrente postale il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché se volete sottoporci le vostre autoproduzioni, i vostri demo, segnalazioni delle iniziative che fate. L'indirizzo è fantasma@ondarossa.info. Il telefono 0649 1750. Fatevi sentire. Shadrach, Meshach, and Abednego. Noi iniziamo con una novità, anzi ancora non è una novità, è un'anticipazione del prossimo lavoro dei Dalton. Che già avrete visto in magari in qualche concerto in giro per l'Italia. Questa è la terza traccia del prossimo lavoro, che uscirà forse ottobre-novembre. Loro sono i Dalton e questa è Niente Paura. Niente paura, niente paura, non si morirà, chi nasce solo, sopravviverà, sopravviverà, in questo mondo, che non fa per noi, ma chi ti ama, se neanche tu lo vuoi, se neanche tu lo vuoi, se neanche tu lo vuoi. Quindi grandi stornellate oi, proprio che richiamano birra. E loro sono i Dalton. E ci abbiamo un'altra novità, anzi, come prima. Non è una novità, ma è un'anteprima. Però vabbè, lasciamo i pub e la birra, andiamo. Un'altra mattina, alzato male. Sotto le ali del demonio, a pensare, dalle terre oscure di Colleferrot. Loro sono i Placcaggio e questa è una traccia del prossimo lavoro che uscirà in ottobre, che è Ziggurat. Una soluzione bisogna trovare. non posso più stare in questo stato. Quindi probabilmente per la prima volta in radio. Questo è il vascello, loro sono i Placcaggio. E dopo i Placcaggio dal futuro lavoro che sarà Ziggurat, ci ci spostiamo nella Tuscia, in quel dei Viterbo. C'è un gruppetto che suona da circa 20 anni. Da Viterbo, di Razza a Parte. Razza a Parte. Qui dal vivo, durante lo scorso concerto con i The Vile e i Nofu alla SNIA. Dai. Grazie, allora, noi siamo in Razza a Parte, siamo qua in sostegno di Radio Onda Rossa, siamo qua anche per festeggiare i nostri primi 20 anni. Avremmo voluto fare, grazie, tirate l'orecchio uno per uno, avremmo voluto fare qualche pezzo del nostro disco di prossima uscita, però siamo rimasti senza batterista da pochissimo, ringraziamo Capo che si è prestato a tutto ciò, quindi faremo una scaletta vintage. Grazie, il prossimo è un classico della musica, oh, e noi l'abbiamo rifatto in dialetto viterbese. Questa è per tutti gli skinhead. We'll be right back. Il prossimo parla della nostra città, si chiama Il posto dove vivo. Grazie. Un altro posto. Un altro brano legato al nostro posto, diciamo. La Marrocco. E questo era il concerto, inizio concerto di Razza a Parte. Alex Snia per Radio Onda Rossa. Ricordiamo un paio di appuntamenti. Questo sabato 5 settembre, presidio al CIE di Ponte Galeria in solidarietà con le persone recluse. In questa lunga estate le persone migranti stanno lottando contro il regime delle frontiere e la guerra che l'Europa conduce nei loro confronti. Rifiuto dell'identificazione di massa, fughe, proteste, blocchi stradali e tentativi di attraversamento dei confini a gruppetti o in centinaia, come a Ventimiglia e a Calais. Nei lager chiamati CIE, mentre la repressione colpisce con pestaggi e trasferimenti punitivi, gli scioperi della fame, i tentativi di fuga e le resistenze alla deportazione ci dimostrano che le persone recluse non abbassano la testa. Quindi l'appuntamento è per questo sabato 5 settembre dalle 17, appuntamento a stazione Ostiense per andare e tornare insieme, e dalle ore 18 il presidio solidale. Poi a seguire Fritto libera tutti. Il prossimo è dedicato, come di consueto, quindi un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa, all'Orto Insorto. Noi se la dedichiamo a vicenda tra di noi, Dio. Quindi portate tutto quello che volete friggere, noi ci mettiamo friggitrice e pastella, quindi ci ungeremo a sostegno di Radio Onda Rossa. Dalle 19 chiacchierata su Hacking Team e sorveglianza digitale. E poi a seguire Si Frigge. Non che si faranno grattachecche. E il prossimo è un pezzo che ci ha mandato Patato, da Anguillara Sabazia. Sulle sponde del lago di Bracciano. Questo è un pezzo che ci ha mandato così, insomma, ce lo voleva far sentire. E farvelo ascoltare, questa è Rolex Patato. Io vedo gente della mia età pagare per la dignità. Piangono amaro e quando ridono, ridono forte. Qualcuno ha detto che Milano sarà la Genova di Alfano. Possa accadere che io possa vivere per raccontarlo. E allora sì, sono colpevole, sì, ingabbiatemi, ma no, non scordatevi di me. Anche stavolta pago io per te. Primo maggio padiglioni, una miriade di persone. Qualcuno non è qui per spendere e mangiare. Qualcuno sfascia la vetrina di un istituto di rapina. Volevi un mostro e ora ce l'hai in copertina. E allora sì, son colpevole, sì, ingabbiatemi, ma no, non scordatevi di me. Anche stavolta pago io per te. Semini odio e fu' obbedienza, vendi terrore e puoi pazienza. Spari col fuoco e aspetti indietro riconoscenza. Se questa vita avrà un futuro, ti sogno con la faccia al muro. Intanto scrivo una canzone e tengo duro. E allora sì, son colpevole, sì, condannatemi, ma no, non scordatevi di me. Anche stavolta pago io per te. L'egoismo è il sentimento fondamentale della religione della proprietà. E questa era Rolex. Io sento che questa condizione mi sta diventando insopportabile. Pezzo dedicato all'Expo. Così come lo sta diventando per molti di voi. Loro da Bologna. Dal loro recentissimo lavoro Rumore e Rabbia. Loro sono in Repressione. Come on. queste erano le prime tre tracce. Di Rumore e Rabbia di Repressione. Serie Z0, Chiesa brucia. E da Bologna ritorniamo a Viterbo. Insomma, non escono solamente gruppi hardcore da Viterbo. C'è anche spazio per un po' di stoner. Loro sono i Gorilla Pulp. Questa è Mean Devil Blues. We'll be right back. Loro sono i Gorilla Pulp da Viterbo, con il loro Hell in a Can, l'inferno in una lattina. Questo era lo stoner etrusco dei Gorilla Pulp. E ci spostiamo a Roma. loro sono i Nofu. Dal loro ultimo lavoro, mito ciclicità. Con una cover di Negazione. Qualcosa scompare. Abbiamo ascoltato i Nofu. Con una versione tagliente di Qualcosa scompare di Negazione. E già sotto vanno dei Dirty Jobs. Gruppo di bei ragazzi. E ce l'ascoltiamo del loro primo lavoro autoprodotto. Che è Play Dirty. Ce lo riascoltiamo da capo. We'll be right back. quindi supportate i Dirty Jobs. Prendetevi questo dischetto. Probabilmente lo potrete scambiare e barattare. Con uno shot di whisky. Vi salutiamo prima di lasciarvi all'automatico di Onda Rossa. Trasmissione che torneranno in diretta domani mattina dalle ore 8 con la rassegna stampa. Noi ci diamo l'appuntamento al prossimo giovedì dalle ore 21. Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa. Il nostro saluto più caro va a tutti e tutte coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. A giovedì prossimo. Vi lasciamo con i Destroy Your System.